Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi, questa è Radio 24 e questa è Italia in controluce, l'approfondimento quotidiano della redazione sui temi più importanti, secondo noi quello della paralisi, se non della fine di un modello di protezione civile. L'attività di previsione e prevenzione dei grandi rischi è dunque ad un passo dalla paralisi, lo diceva ieri il fisico Luciano Maiani annunciando le sue dimissioni come conseguenza della sentenza del Tribunale dell'Aquila. E con questa sentenza è crollato secondo voi un modo di fare la protezione civile in Italia? E come si dovrebbe ricostruire un nuovo modo di gestire le disgrazie, le sciagure, le alluvioni, i terremoti, sia diciamo per quanto riguarda le alluvioni in fase di previsione, sia poi di gestione successiva nel nostro paese? Bisogna ancora prestare a ascolto, secondo voi, agli scienziati? 349 238 6666 sono i vostri sms, come sempre in diretta la redazione di Radio 24. Oggi Maria Luisa Pezzale. Buongiorno Daniele, buongiorno agli ascoltatori. Continua a far discutere la sentenza del Tribunale dell'Aquila che ha condannato, lo ricordiamo, a 6 anni di reclusione più l'interdizione dai pubblici uffici 7 esperti della Commissione Grandi Rischi accusati di omicidio colposo per quelli che i giudici hanno ritenuto avvertimenti insufficienti sul terremoto dell'aprile 2009. Una sentenza senza precedenti a livello mondiale che ha provocato dimissione a catena, lo abbiamo sentito, dimissioni di cui venerdì il Consiglio dei Ministri chiederà il ritiro. Quello che ora ci si chiede è: la gestione delle future emergenze è a rischio con una Commissione Grandi Rischi di fatto delegittimata, della quale appunto nessuno scienziato vorrà più far parte? Che cosa succederà con il prossimo sciame sismico, con quello che ad esempio è in corso già da mesi nel Pollino? L'errore è stato aver affidato le decisioni politiche a un comitato di tecnici e scienziati, ha detto il ministro dell'Ambiente Corrado Clini. Sentiamolo al microfono di Anna Migliorati. Il ruolo della scienza non è quello della politica e non è neanche quello dell'amministrazione. Gli scienziati devono dare le loro valutazioni, devono fare le loro previsioni e poi è la politica che deve assumere la decisione. Non crede che almeno in una fase storica anche gli scienziati si siano arrogati forse ruoli che non erano loro? Questo può essere, può capitare. Sostanzialmente questo avviene sempre quando le istituzioni non sono credibili. Quale dovrebbe essere la catena di comando allora, secondo lei? L'amministrazione o le istituzioni pubbliche ricevono le informazioni e gli input dai diversi sistemi, quello della scienza, quello delle agenzie territoriali, e sulla base delle informazioni assumono le decisioni, che a volte possono essere esagerate, altre volte invece sono utili per prevenire poi danni. Il problema è che a fronte di questa condanna a carico degli scienziati non c'è nessuna individuazione delle responsabilità per gli amministratori, per chi ha costruito, per chi non ha fatto prevenzione sul territorio. A questo proposito citerei alcuni dati, sono stati pubblicati ieri dal Corriere della Sera. Per riparare i danni dei terremoti tra il 1968 e il 2003, esclusi dunque quelli più recenti, sono stati spesi 162 miliardi di euro. Per mettere in sicurezza sismica il patrimonio edilizio, secondo gli esperti, ne sarebbero bastati tra i 25 e i 41. Daniele. Ecco, tu poco fa hai sentito l'ex ministro della protezione civile Giuseppe Zamberletti, diciamo il padre della protezione civile nel nostro paese. Intanto stanno arrivando moltissimi sms al 349 238 6666. Io saluto anche il nostro ospite che è Ermete Realacci, presidente onorario di Legambiente. Buongiorno Ermete. Buongiorno, buongiorno. Sentiamo Zamberletti. Io mi sono dimesso perché, da un verso, per solidarizzare contro la comunità scientifica profondamente inquieta, perché ha il timore di rispondere delle consulenze che fornisce al sistema di protezione civile, quindi allo Stato, e di essere valutata addirittura nel merito delle valutazioni che fa e che se rese in buona fede sono valutazioni che non possono portare a un giudizio di così pesante e così difficile. Dobbiamo vedere le motivazioni della sentenza. Lei si aspetta un passo del governo adesso? Io mi aspetto un passo del governo, perché probabilmente occorrerebbe una cornice, di una legge che metta in una cornice precisa queste responsabilità, evidenziando la responsabilità per dolo, per colpa grave, rispetto alla libertà di espressione, di valutazione, che deve essere assolutamente garantita. Se no il rischio è che o la comunità scientifica, almeno nei suoi vertici più significativi, si rifiuti di partecipare, o vi partecipi viziata dal timore e quindi portata sempre a disegnare rischi estremi tanto per non sbagliare. La gestione delle future emergenze è a rischio? Se si riesce a rimettere in funzione questo sistema, io credo che il sistema della Commissione Grandi Rischi, che è vitale per il sistema di protezione civile, è vitale, perché la protezione civile che abbiamo costruito non è soltanto un'organizzazione per il soccorso, perché il soccorso vuol dire che c'è stato il fallimento della previsione e della prevenzione. La protezione civile è prima di tutto previsione e prevenzione, e questo senza la collaborazione della comunità scientifica non si riesce a ottenere. Adesso in carcere anche i meteorologi di Genova, si chiede un nostro ascoltatore. E Roberto, dopo 4 secoli la Santa Inquisizione assume le vesti di uno Stato laico ma non meno dogmatico, che processa ancora la scienza, prima accusata del nuovo sapere che andava scoprendo, ora al contrario, per non aver saputo prevedere ciò che non era prevedibile. Un altro ascoltatore che non si firma dice: forse è giunto il momento che gli scienziati denunciano i ricatti e le collusioni con i partiti, così d'ora in poi lavoreranno puliti. Altri, Andrea da Rimini: così pagano non soltanto chi non ha colpe, come al solito in Italia. Poi ci sono quelli che invece danno addosso ai giudici, contro i giudici: dovrebbe crollare la magistratura, abbiamo giudici i più comici del mondo. Questi sono i nostri ascoltatori, alcuni degli sms. Un altro, Davide: i giudici hanno ragione nel merito, anche quando tutti i tecnici del mondo dicono che hanno torto, il suo punto interrogativo. Ecco, Ermete Realacci, tu ti sei occupato molto di queste cose, di questi dibattiti, c'eri naturalmente negli anni 70 quando nasceva la protezione civile nel nostro paese. È crollato con questa sentenza dell'Aquila un modo di fare protezione civile? No, io mi auguro di no, perché il sistema di protezione civile italiano, che come sappiamo ha corso enormi pericoli di finire fuori strada, è stato anche inquinato per molti aspetti, rimane uno dei sistemi migliori del mondo. Noi, per capirci, se devo fare il paragone con quello che ha fatto un grande paese come gli Stati Uniti in occasione dell'uragano Katrina a New Orleans, noi siamo più bravi. Diamo più garanzie ai cittadini. Però c'è un problema serio che questa sentenza mette in rilievo, e cioè il fatto che ci si concentra sull'attività di previsione, che soprattutto nel caso dei terremoti è molto complicata. Paesi più avanzati del nostro sul fronte dell'azione antisismica non sono in grado di prevedere i terremoti. Può darsi che all'Aquila sia stato fatto qualche errore anche nella comunicazione di quanto gli esperti prevedevano, ma insomma è complicato cercare come capro espiatorio degli esperti, che peraltro hanno lavorato gratuitamente, che non erano inquinati da interessi economici, non erano esperti di parte, per così dire, anziché aprire la vera frontiera che c'è sul fronte dei terremoti, come anche in parte sul fronte delle alluvioni, del dissesto idrogeologico, che è quello della prevenzione. Certo, grazie. Grazie Ermete Realacci, che era in collegamento con noi, presidente onorario di Legambiente, e dice il nostro ascoltatore Gianluca: forse è la cosa che non capiscono gli scienziati, che sono stati condannati per aver sminuito le paure della popolazione, non per il mancato avviso. Bene, allora ci sentiamo domani, vi ricordo Facebook, pagina gruppo Controluce chiocciola radio24.it e la nostra pagina su Twitter. Come sempre alle 13.30 domani l'approfondimento di Radio 24.